Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio siamo soliti avere ogni tanto come ospiti quei rappresentanti del mondo produttivo o economico veneto che ci sembrano meritevoli di essere conosciuti. Ci fa quindi piacere avere oggi come ospite Remo Pedon, titolare assieme ai fratelli Sergio e Franco dell'omonima azienda che ha sede a Molvena. Benvenuto, signor Remo. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Pedon forse è un nome che dirà poco agli ascoltatori, però siamo anche sicuri che molti di loro sono in realtà venuti a contatto con i vostri prodotti, anche senza saperlo, perché ormai siete presenti nella grande distribuzione sia con il vostro marchio sia anche attraverso i prodotti commercializzati con gli altri marchi. Innanzitutto cominciamo a dire che Pedon è sinonimo di legumi, non solo in Italia, dico bene? Sì, noi lavoriamo soprattutto legumi e cereali, siamo presenti non solamente in Italia, non solamente in Europa, ma ormai da qualche anno a livello globale. Sì. Ecco, come è nata un po' l'azienda e come avete iniziato a occuparvi di questo particolare prodotto? Allora, l'azienda è nata nel 1984, noi nel 1984 abbiamo cominciato il confezionamento di legumi, ed è nata perché il prodotto, questi legumi e cereali ci piacevano particolarmente. Avevamo già iniziato a livello di grossisti un certo fatturato con questi prodotti e abbiamo prima pensato e poi progettato e poi incominciato a confezionarli con un'unica macchina confezionatrice e un piccolo capannone. Ecco, da un piccolo capannone oggi avete stabilimenti in quattro continenti, 600 dipendenti, la maggior parte dei quali anche assunti proprio negli ultimissimi anni. Come mai tutto questo interesse, questa attenzione per questi prodotti, che poi potremmo anche dire di cosa stiamo parlando quando parliamo di legumi e dei prodotti che non solo legumi che commercializzate? Sì, allora stiamo parlando di fagioli, di ceci e lenticchie. Per quanto riguarda i cereali parliamo soprattutto di orzo, non solamente di orzo e di farro, ma anche di altri tipi di cereali. Noi anche nell'ultimo anno e mezzo, quindi parlo solamente di Italia, abbiamo assunto 34 persone, però il gruppo ormai, come diceva lei, è presente non solamente in Italia, ma è presente con nostre fabbriche in Cina, in Etiopia e in Argentina, e il totale dei nostri dipendenti sono 600 a livello mondiale. Io sono un po', quando l'ho conosciuto, ero un po' stupito del fatto che con il settore dei legumi si potesse avere un business di queste dimensioni. Ecco, stavo chiedendo prima come mai questa richiesta probabilmente di questo tipo di prodotti, forse perché c'è più attenzione anche all'alimentazione, qui stiamo parlando di fagioli, ceci, lenticchie, prodotti forse poco noti ma in crescita mi pare di richiesta, e che sono alimenti molto ricchi, e avendo più attenzione all'alimentazione forse c'è maggior richiesta di questo tipo di prodotti, o anche in altre parti del mondo dove voi li esportate, oppure ci sono altri motivi? Beh, allora direi che uno sicuramente, l'ha spiegato lei, sicuramente questa è la voglia sempre di più nel mondo occidentale di mangiare cibi sani. Questo ultimamente noi abbiamo un grandissimo sviluppo per esempio negli Stati Uniti, proprio perché c'è quest'onda di cominciare a mangiare cibi molto più naturali rispetto a una volta. Dall'altro lato però non dimentichiamo che pur essendo prodotti, come dice lei, ricchi di proteine, sono naturali, ma nel stesso tempo costano poco, per cui anche negli ultimi anni, in questi anni, un occhio non solamente alla qualità naturale, ma anche alla spesa, per cui sicuramente i nostri prodotti sono poco costosi. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Remo Pedon dell'omonima azienda Pedon e stiamo parlando in particolar modo di legumi. Rispetto ad altri prodotti richiedono parecchi interventi dal punto di vista proprio agricolo, non so, dagli antiparassitari, a concimi, tutto quello che serve, oppure sono prodotti più salutari anche da questo punto di vista? Hanno bisogno veramente di poco. In tante aree del mondo, per esempio, non vengono, proprio perché stiamo parlando anche di aree di produzione dove gli abitanti sono poveri, gli agricoltori sono poveri, per cui molto facilmente non viene usato nessun prodotto chimico, cioè sono veramente naturali. Poi non hanno bisogno di particolare attenzione, non hanno bisogno di consumo di acqua, di molta acqua, solitamente l'acqua che hanno bisogno è solamente quella naturale, per cui non vengono irrigati nella stragrande maggioranza, per cui è veramente un prodotto in tutto tondo, molto semplice, sia per quanto riguarda coltivazione e poi molto semplice da cucinare, e però dall'altro canto molto ricco di proprietà naturali. Ecco, forse sono prodotti che appunto non siamo così abituati nella nostra cucina anche veloce ad utilizzare, perché magari non sappiamo come cucinarli. C'è per esempio un prodotto o storico o di recente introduzione che lei consiglierebbe agli italiani e che dovrebbe essere valorizzato di più? Potrebbe entrare, diciamo, secondo lei, nella nostra alimentazione quotidiana o quasi? Ma guardi, io direi che intanto, come ha detto lei, sì, sono prodotti che solitamente necessitano abbastanza tempo per la cottura, però noi già da parecchi anni abbiamo introdotto sul mercato una lavorazione che completamente naturale anche questa, che è la pre-cottura, cioè per cui facciamo molti prodotti un mix anche di legumi e di cereali che possono essere cucinati in 10 minuti. Questo sia la precottura completamente naturale, il prodotto che noi offriamo è privo di coloranti, privo di conservanti, per cui completamente anche con linee biologiche, per cui completamente naturali veramente al 100%. Senta, voi avete uno stabilimento in Etiopia, la cosa è un po' curiosa, che cosa coltivate e anche com'è organizzato? Poi so che là avete anche realizzato una scuola e quindi avete anche una certa sensibilità, l'attenzione a queste, alle problematiche sociali, tra l'altro siete una tra le poche aziende italiane certificate Fair Trade, se non sbaglio, che significa che siete certificati ad avere una certa attenzione per l'equità della retribuzione, dei rapporti con i lavoratori, del rispetto dei diritti dei lavoratori. Ecco, cosa fate in Etiopia e come? Allora, noi in Etiopia facciamo soprattutto fagioli. Abbiamo cominciato questo progetto nel 2005, assieme alla fabbrica abbiamo costruito immediatamente nel stesso periodo una scuola che all'inizio avevamo solamente 50-60 bambini, adesso siamo arrivati ad averne 250 bambini, dai 3 agli 11 anni e da quando hanno 3 anni i bambini cominciano già a studiare l'inglese. Questa scuola è completamente sovvenzionata da noi, abbiamo anche il bus che vanno nei posti più lontani, che portano i bambini, si fermano da noi dalle 8 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, hanno la mensa, per cui è in piena attività e in continuo sviluppo la scuola. Poi sì, noi pensiamo intanto che non si possa andare a fare delle fabbriche in Africa senza pensare alla solidarietà e senza comunque portare la completa trasparenza, per cui degli acquisti, di parlare con gli agricoltori e con situazioni concordate con loro. Noi, come ha detto lei, possiamo confezionare il prodotto Fair Trade, per cui assolutamente una situazione ecosolidale, in modo tale che l'agricoltore con contratti pattuiti sappia dall'inizio qual è il loro profitto, e per cui abbiamo visto che questa formula, che anche ultimamente è oggetto di studio della FAO, ci sta pagando, perché continuiamo ad aumentare le quantità e abbiamo in programma, in progetto, di continuare a aumentare le nostre quantità in Etiopia. Non solo, tra l'altro dovrà partire l'anno prossimo anche sulla falsa riga del progetto che abbiamo fatto in Etiopia, un altro progetto sempre in Africa, sto parlando di Mozambico. Bene, i vostri prodotti, in conclusione, ricordiamo dove li si possono trovare, quindi magari, appunto, ne abbiamo parlato, uno può essere curioso anche di... Allora, i nostri prodotti si possono trovare in tutta la grande distribuzione italiana, o con il marchio nostro, con il marchio Pedon, oppure con il marchio, con l'insegna della catena distributiva, cioè per cui anche se non trovano il nostro marchio, facciamo oltre 100 prodotti a marchio, per cui molto facilmente sono comunque prodotti nostri. Quindi, guardando nell'etichetta, nelle cose scritte in piccolo, si trova anche il vostro nome. Prodotto confezionato sia a Molvena, noi siamo a Molvena, per cui sono prodotti siete nostri. Siete sicuramente voi. Dobbiamo fermarci qui e ringrazio Remo Pedon per la disponibilità. Grazie a lei. E passiamo adesso ad alcune notizie. Prende il via il 19 novembre l'edizione 2012 dell'Albero delle Mele, iniziativa organizzata dall'associazione Le Radici per promuovere le caratteristiche morfologiche e organolettiche della mela nel comprensorio montano e pedemontano della Valle Ogra e Valle del Lagno. Fino al 7 dicembre 2012 la sede dell'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Tiene, di Veneto Agricoltura, sarà luogo principale per degustazioni e valutazioni dei frutti. 6 nuovi prodotti a denominazione di origine protetta sono stati approvati dalla Commissione europea e tra questi uno è italiano, si tratta delle ciliegie di Vignola. Due degli altri prodotti approvati vengono dal Portogallo, uno ciascuno da Germania, ovvero gli asparagi della regione di Abensberg, dalla Slovenia con la carne di maiale di Kraška e dalla Gran Bretagna, precisamente i canestrelli detti Queenies dell'isola di Man. Fino al 25 novembre a Scorzè si tiene la 31esima edizione della Festa del Radicchio Rosso IGP, una delle più importanti feste venete dedicate ai prodotti alimentari, che apre ufficialmente la stagione della prelibata verdura protagonista della tavola veneta. L'edizione 2012 è dedicata al turismo rurale e alla cucina vegana, temi al centro di mostre ed eventi, il cui programma si può trovare sul sito internet della Proloco www.prolocoscorzè.it. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la rubrica Il Quadrifoglio e vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le precedenti puntate in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.